1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti, ben ritrovati. Allora vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Beh, avremo ospite il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, alle 8:35, parleremo ovviamente del terribile fatto di cronaca in provincia di Ragusa. Leggo dai giornali che il cerchio si stringerebbe attorno all'assassino del piccolo Loris. Cercheremo di capire qualcosa di più, per quanto ci possa dire, al procuratore alle 8:35. E poi parleremo di questa vicenda delle occupazioni delle scuole, su cui ieri si è cimentato il sottosegretario all'istruzione Davide Faraone, che sarà nostro ospite alle 8:15 insieme al direttore del TG4 Mario Giordano, per raccontare, insomma, avete sentito ieri sulla stampa, diceva Faraone, occupare una scuola e autogestirla è un'esperienza di democrazia da parte degli studenti, è un qualcosa che andrebbe addirittura istituzionalizzato, forse in maniera un po' provocatoria, le occupazioni delle scuole. Chi non ne ha fatta una nella vita, cari ascoltatori? Io no, per esempio. Comunque, insomma, voi sicuramente sì. Scriveteci. Intanto andiamo alla lettura dei giornali. In questo martedì 2 dicembre il Sole 24 Ore apre così: petrolio ancora in caduta ai minimi da 5 anni. Mentre la politica ancora tiene banco sugli altri quotidiani, il Corriere della Sera apre su niente alibi sulle riforme, Napolitano non lascerà prima di fine anno. È un comunicato ufficiale dell'ufficio stampa del Quirinale. Repubblica, Napolitano, resto fino al termine del semestre europeo. Il Giornale invece accusa Renzi, si compra i grillini. La Stampa, Napolitano, i paletti all'addio. Il Messaggero, non lascio prima di gennaio. Il Fatto Quotidiano invece ha un'interessante notizia sul Quirinale. Riccardo Muti al Quirinale. Renzi l'ha chiesto a mio padre. Parla il figlio del maestro Muti. Libero, Equitalia, strozzini di Stato. Ecco le prove. Un cittadino chiede di rateizzare un pagamento, gli applicano il 45% degli interessi grazie alle leggi. Questa è l'apertura di Libero, mentre Avvenire si concentra su Far West Azzardo, un business da 2 miliardi sottratto al fisco nei 6.000 centri scommesse non autorizzati in Italia. Il Manifesto invece, Renzi alla direzione del PD, la corta marcia, questo è il titolo, con la foto del Presidente del Consiglio. Oggi La Stampa torna dopo l'articolo di Davide Faraone sul sottosegretario di Stato all'istruzione sulla questione delle occupazioni. Ci sono gli studenti dei licei autogestiti che invitano Renzi, venga a vedere il nostro liceo. C'è invece l'intervista a Mario Rusconi, che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che sbotta sulla stampa, dice: sbagliatissima questa solidarietà, chi occupa commette un reato. Il sottosegretario all'istruzione Faraone ha voluto tendere una mano agli studenti d'Italia che stanno occupando le scuole. Quella del sottosegretario, dice Rusconi, è una posizione profondamente sbagliata. In queste ore tanti colleghi mi chiamano scandalizzati. Contesto l'idea che siano esperienze di grande partecipazione democratica. In questi giorni a Roma è stato occupato un liceo da 8 ragazzi su 1200. È democrazia questa? E così il rappresentante dei presidi Rusconi dice, che è spesso anche nostro ospite, dice: il sottosegretario sbaglia a parlare di democraticità, di democrazia in questo caso nelle occupazioni. E ancora, è una contraddizione prendere le occupazioni sul serio. Non mi aspetto questa contraddizione da un componente del governo che invece ha il compito di far rispettare le istituzioni. In 20 anni di occupazioni non ce n'è stata una che abbia portato a un salto di qualità dell'offerta formativa delle scuole o a chissà quali cambiamenti positivi. Così Mario Rusconi sulla stampa. Comunque ne parleremo alle 8:15. Invece, che paese è quello? Un paese un po' bambino, quello in cui è già partita la psicosi da, da vaccino. L'Istituto Superiore di Sanità ha ribadito, come scrive anche oggi sul Sole 24 Ore in prima pagina Marzio Bartoloni, che dai primi test è tutto a posto, i vaccini non sono corrotti, i vaccini vanno bene, ma ovviamente adesso vai a frenare la psicosi da vaccino. E allora, in prima pagina del Sole, i vaccini funzionano, l'allarme è ingiustificato. Il vaccino antinfluenzale è sicuro, non è stato riscontrato nessun segno di tossicità nei lotti bloccati, scrive Bartoloni. Così i primi test effettuati dall'Istituto Superiore di Sanità che sgomberano il campo dalle paure degli ultimi giorni. Ma, dicono gli esperti, va scongiurato ora l'altro allarme, la psicosi da vaccino. A preoccupare i cittadini è ovviamente l'aumento delle segnalazioni di decessi sospetti. Ieri sono arrivati a 20 casi segnalati, ma dal Ministero della Salute e delle autorità sanitarie si è arrivati all'invito a proseguire la campagna vaccinale. Dobbiamo convincere le persone a vaccinarsi per evitare gravi complicanze, ma non basta. Basterà Bruno Vespa, che si è vaccinato in diretta porta a porta, a convincere gli italiani? Non lo so. Sta di fatto che è partita questa psicosi, è inevitabile. Oggi il Fatto Quotidiano fa un'intervista di due pagine a un personaggio popolare, un personaggio dello sport che è stato travolto da questa vicenda del doping per il fidanzato. È Carolina Kostner che parla per la prima volta, lo fa con Beatrice Borromeo. Pagina 6 e 7 del Fatto Quotidiano, Carolina Kostner, che sapete rischia una squalifica per avere coperto, nel senso che durante un controllo antidoping Alex Schwarzer, allora suo fidanzato, era a casa sua, si presentarono quelli dell'antidoping, Schwarzer disse digli che non ci sono e lei disse non c'è. Ora, lei si difende, dice io lo amavo, come dire è stato un gesto d'amore, ho deciso in pochi secondi, ho deciso di mentire. Ma a qualunque ipotesi tranne al doping pensavo in quel momento, per me era fuori dal mondo. E poi quando sono rientrata a casa mi ha risposto Alex che si sarebbe fatto testare quello stesso giorno, cosa che poi peraltro ha fatto. Quindi il dubbio, se mai l'avesse avuto, sarebbe andato via subito. Perché farsi testare quella sera stessa se hai qualcosa da nascondere? Io gli ho detto guarda, esco e quando torno non devi più essere qui, prendi le tue cose e vai a fare il test. Lui era pronto per partire, ma quando sono uscita di casa ho visto che l'ispettore che ha bussato alla porta era ancora lì. Forse perché non sono stata brava per nulla a mentire. Non sapevo allora più cosa fare. Sono andata a fare le commissioni. Quando sono rientrata ho passato il telefono al controllore perché parlasse con Alex. Non so cosa si siano detti, ma l'ispettore, finita la chiamata, se n'è andato e la sera Alex mi ha telefonato da casa sua dicendo che aveva fatto il test ed era tutto a posto, per me era finita lì. Insomma, per la prima volta Carolina Kostner, in due pagine molto intense di intervista, racconta e dice «Io non coprirei mai chi si dopa, non merito una squalifica di 4 anni, potrei decidere io stessa di voltare le spalle alle gare». A questo punto lo amavo, ma non fino a coprirlo al doping. Io non sapevo nulla. Ho saputo del doping la prima volta quando me l'ha detto in faccia, cioè dopo che erano arrivati i risultati del test. E quando ho saputo della positività sua, mi sembrava impossibile che il motivo fosse il doping. Non avevo nemmeno il coraggio di chiedere, vivevo un panico che non avevo mai provato prima. In quel momento poi ero infastidita per la bugia che mi aveva chiesto di raccontare, ma non potevo neanche immaginare quanto più grande e grave fosse la faccenda. E ancora Carolina Kostner dice «È vero, ho mentito su sua richiesta, ho detto che non era in casa, ma non l'ho mai e poi mai coperto, perché non avevo idea di quello che facesse. Chi mi accusa di leggerezza e ingenuità non sa la vita che fa uno sportivo a questi livelli. Torni a casa la sera dopo una giornata di allenamenti e sei talmente stanco che gli unici pensieri che hai mangio e vado a letto. E poi io vivo e lascio vivere per carattere. Per me una storia d'amore si basa sulla fiducia e io non sono il tipo che chiede cosa fai, dove vai, con chi, quando, perché, non potrei mai. Anche perché se qualcuno lo facesse con me impazzirei. E poi ero una persona che cercava di vedere il bene negli altri». Insomma, è una lunghissima intervista, sono due pagine. Sul Fatto Quotidiano parla per la prima volta Carolina Kostner del suo rapporto con Schwarzer, della sua rabbia quando scoprì del doping e della sua difesa ora che rischia 4 anni di squalifica perché l'accusa di avere coperto il doping del fidanzato, o meglio dell'ex fidanzato. Siamo però al momento mani sul volante. Guardate, questo è un articolo che bisogna leggere con molta cura perché a me ha suscitato una rabbia, è un qualcosa quasi di indicibile, di non raccontabile, eppure è la realtà e capita in Italia. Io non so se ricordate la vicenda a Ravenna di un bambino, Jonathan La Sorsa, che fu investito e ucciso a 3 anni, aveva 3 anni, da un pirata della strada che non si fermò. Come racconta il Quotidiano Nazionale con Lorenzo Priviato, e questo è l'articolo che davvero mi fa più incazzare di questa giornata, la vicenda fu questa: scappò dopo aver travolto, ucciso, trascinato per un centinaio di metri il corpo di un bambino. Andato via da lì, andò con una prostituta, come se nulla fosse successo, come magari altre volte aveva fatto, dopo essersi ubriacato al bar. E mentre lui se la spassava, ovviamente una madre e un padre erano piegati sul dolore del corpo del bambino ucciso. Ebbene, 37 anni, autotrasportatore bulgaro Dimitrov Denchev Krasimir è stato condannato a 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di carcere. Non farà un solo giorno di galera. Queste sono le leggi in Italia. Non si parla. Da quanto si parla di mettere l'omicidio stradale? Mandatevene a fa'. Io sono qui a condurvi per mano attraverso la selva oscura delle vostre rabbie, dei vostri odi, delle vostre umiliazioni. Alessandro Milan, il grande puffo dell'informazione. Il grande puffo, mitico il grande puffo con la barba bianca. Vabbè, no, non dico scusate lo sfogo, ma veramente, cioè, quando si leggono queste notizie come quella che ho letto prima, bambino travolto, ucciso da un pirata della strada, ubriaco, che poi è andato a prostitute, condanna a 2 anni e rotti e non farà un giorno di carcere. E va bene. E ripeto, da quanto tempo è che si parla di fare l'omicidio stradale? Si chiacchiera, in Italia si chiacchiera, si chiacchiera. Ci piace chiacchierare, non fare nulla, chiacchierare. Per esempio sulla questione della politica, no? Il chiacchiericcio della politica, poi insopportabile, che esonda dai giornali. Allora il nuovo dibattito è questo: quando si dimetterà Napolitano? Allora, per frenare tutte queste chiacchiere, ieri il capo dello Stato ha fatto emettere una nota ufficiosa, fa sapere il Corriere della Sera con Marzio Breda: non mi dimetto, i tempi sono ancora da valutare, non mi dimetto prima della fine del semestre europeo, che poi vuol dire prima di fine dicembre, quindi un mese. Quindi vorrà dire, siccome non parteciperà probabilmente alle manifestazioni della giornata della memoria del 27 gennaio, che si dimetterà tra il gennaio, tra l'inizio di gennaio e la fine di gennaio. Comunque il senso, come scrive il Corriere della Sera con Marzio Breda, di questo comunicato del Quirinale è che non si vogliono legare le dimissioni di Napolitano con l'iter delle riforme. E subito infatti Renzi ha detto: bisogna accelerare sulla legge elettorale. Non fa neanche più ridere, questa cosa. Siamo all'83esima settimana decisiva. Bisogna accelerare, mentre Forza Italia pare che freni, la Lega pare che freni. Allora Renzi dice accelerare sull'Italicum, invece Berlusconi vorrebbe prima l'elezione del successore di Napolitano e poi l'Italicum. Ma attenzione, perché il secolo XIX dice che è tutto già segnato. Giovanni Palombo, pagina 4 del secolo XIX. È già pronto il piano Calderoli per far slittare il voto al 2015. Quando c'è da bloccare una legge elettorale o far qualcosa sulle leggi elettorali, Calderoli è sempre pronto. E allora eccolo qua: per bloccare l'iter dell'approvazione della legge elettorale si sta fiondando, come al solito, Roberto Calderoli, uomo macchina della Lega Nord, capace di sfruttare la conoscenza dei regolamenti di Palazzo Madama a suo piacimento, scrive il secolo. Come si fa a slittare tutto? Il progetto è quello di frenare, frenare. Ma come? Beh, presentando semplicemente degli emendamenti per chiedere il parere della Commissione Bilancio, che però non può pronunciarsi perché nel frattempo è impegnata nell'esame della legge di stabilità, e così i tempi slitterebbero. Questo per frenare la legge elettorale. Accelerare, frenare, eccolo qua, il Corriere, Renzi accelera sull'Italicum con il sì del PD, altri frenano, intanto sul Quirinale, attenzione, oggi il Fatto Quotidiano sul Quirinale ha una notizia, tanto che il quotidiano Antonio Padellaro la mette in prima pagina come titolo di prima pagina, ed è questa: Riccardo Muti al Quirinale, Renzi l'ha chiesto a mio padre, parla. L'articolo è di Giampiero Calapà a pagina 2. Parla Domenico Muti, terzo genito del maestro, laureato in legge, curatore di tutti i contratti del padre per la Riccardo Muti Music, vicepresidente dell'esclusivo circolo Ravennate dei Forestieri. Ecco cosa dice per mio padre. Per me mio padre resta un direttore d'orchestra, ma dell'eventuale elezione al Quirinale abbiamo parlato in famiglia con lui e sappiamo che una cosa del genere è troppo seria per non essere presa con serietà. È quello che faremo, il suo nome lo ha fatto Renzi e una proposta del Premier è una cosa seria. Il figlio di Muti, attenzione a fare queste dichiarazioni, come si dice in questi casi, ci si brucia per la corsa al Quirinale. Vi piacerebbe Riccardo Muti al Quirinale? Intanto invece c'è il dibattito sul PD che apre il mercato dei parlamentari 5 Stelle. Questo è il titolo del giornale con Laura Cesaretti a pagina 4. Galeotta fu una telefonata di quando Piazza Pulita stava intervistando l'onorevole Artini, neo espulso dal Movimento 5 Stelle. Artini, che peraltro è il compagno di classe di Matteo Renzi, riceve durante l'intervista una telefonata di Renzi e dice durante l'intervista registrata: aspetta, è Renzi, e parla Matteo, poi dice: guarda che però sono microfonato, ci sentiamo dopo. Piazza Pulita manda in onda questa cosa, Artini, che era lì in diretta, si arrabbia, si infuria, abbandona lo studio dicendo: questa è disinformazione, avete mandato in onda una mia intervista, una mia telefonata privata. E il dato di fatto è che Renzi ha telefonato ad Artini e tutti qua ci marciano a dire: eccolo lì il Premier, il Presidente del Consiglio cerca di fare scouting, vi ricordate? Scouting, lo scouting di Bersani su Movimento 5 Stelle. Comunque tutte le attenzioni sono sul Movimento 5 Stelle, c'è chi come Repubblica racconta di tregua armata tra dissidenti e falchi, arriva giovedì Casaleggio, c'è chi come Il Giornale con Paolo Bracalini racconta che spunta un fondo espulsioni e soprattutto Casaleggio è preoccupato perché i contatti sul sito stanno diminuendo e quindi meno contatti, meno soldi, questo al sito di Casaleggio. Casaleggio che, se lo volete sapere, racconta Paolo Bracalini, dalla minoranza del Movimento 5 Stelle è chiamato Giangi, il Giangi, Gianroberto Casaleggio, il Giangi, arriva giovedì a Roma. E poi il dibattito politico prende 2-3 pagine su che cosa? Beh, ma insomma la diatriba che c'è stata tra Nichi Vendola, governatore uscente della Puglia, e il sottosegretario Cassano del nuovo centrodestra. Il sottosegretario Cassano che cosa ha detto a Vendola? Io ho le mani di chi ha lavorato coi calli, tu hai le mani di uno che si fa la manicure. Nichi Vendola ha sbottato dicendo: ma questa è un'accusa omofoba, sei un omofobo, andresti cacciato dal governo. E allora Cassano, sottosegretario, fa due interviste, una a Repubblica e una a Libero. E a Repubblica dice al giornalista Concetto Vecchio: è lui l'omofobo, è Vendola l'omofobo che attacca un padre di famiglia, lo denuncio quel signore, lui con questo uomo appartenente al mondo Kashmir e martello. Volevo dire che non ha mai lavorato, tutto qui, a me i gay non danno nulla, io ogni sera esco con i gay, che ho elettori importanti gay, io vivo tra i gay, perfino uno della mia segreteria è gay, ce ne sono in Nuovo Centrodestra, ce ne sono in Forza Italia, sono dappertutto. E quindi io volevo semplicemente dire a Vendola che non sa cosa sia il lavoro, una famiglia che ti accoglie nei momenti difficili, la responsabilità dell'essere padre e marito. Vabbè, anche a Libero dice: io difendo i gay, ora basta, denuncio Vendola, è lui l'omofobo. Ah. A proposito di non di gay e neanche di omofobi, soprattutto Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, non ho capito a proposito di che. No, a proposito. Facevo un veloce resoconto per capire, non so, se ho degli amici gay, dei collaboratori. Esatto, c'è sempre questa difesa, io ho degli amici gay, ho dei difensori, dei frequenti gay. Devo dire, non mi ero mai preoccupato prima, però lo so, oggi ma ci guardo. Oggi la politica regala anche questo. Oggi ci guardo. Ho sentito che qualcuno si è lamentato della qualità della vita, non so se poi sui giornali hai avuto modo di ritornarci, quella che abbiamo presentato ieri. Noi oggi presenteremo anche un ebook con la raccolta dei 25 anni della qualità della vita, e volevo dire che anche io mi lamento molto della classifica del campionato di calcio, però sì, non sì. Però l'accetti così com'è. E anche tu c'hai i tuoi motivi per lamentarti. Vabbè. Beh, insomma, non è che, ecco, se Atene piange, eccetera. Senti, poi segnati questa cosa, domani con il Sole 24 Ore, 16 pagine per il pagamento di IMU e TASI, perché a volte ritornano, anche direi non a volte, ma sempre ritornano. Bisogna ripagare, come sai, a 16 di dicembre, quindi segnati questa cosa, domani ti tieni via le 16 pagine, ci prepariamo per benino, non facciamo la figura che abbiamo fatto all'acconto, che eravamo decisamente, insomma, disuniti. Volevo dirti che è stato definitivamente approvato il decreto di riordino della tassazione sulle sigarette, anche elettroniche. Non te ne può fregare di meno, perché tu non fumi. Ma beato non fumo, però ci sono molte persone... Beh, che lo fai bene. Ho molti amici che fumano, frequento molte persone che fumano. Ci sono, io anch'io ho molti amici che fumano, e devo confessare, purtroppo io stesso fumo. E oggi naturalmente sul Sole 24 Ore, come tutti i martedì, le tasse del martedì e del giovedì, oggi rivalutazioni e il ravvedimento, che è sempre una facoltà concessa per ravvedersi. Poi interessante la dinamica dell'oro, hai visto che il referendum in Svizzera è stato bocciato. È vero. Non c'è l'obbligo delle riserve, quindi le dinamiche sui prezzi dell'oro raccontate oggi da Sissi Bellomo, non nelle pagine di Norme e Tributi, bensì in quelle di Finanza. E poi ti vorrei dire che avremo finalmente un PIN unico per dialogare con la pubblica amministrazione, cioè non dovrai più registrarti in un modo per il fisco, in uno per l'INPS, eccetera. L'anno prossimo ci danno il PIN unico, speriamo che non faccia la fine della tassa unica. E quella che hai capito, anche tutte le volte che lo diciamo, poi non la facciamo mai. E infine, vuoi aprire un bed and breakfast in casa tua? Puoi farlo anche senza modifiche al regolamento condominiale, a meno che non lo vieti espressamente. Dove ho letto tutto questo? Nella pagina del martedì dedicata al condominio. E dove sta? Indovinalo un po'. Mezza Norme e Tributi. Di Norme e Tributi. Bene, tutto ciò premesso, caro Alessandro, e ti raccomando, comincia a prepararti spiritualmente per la lettura domani di IMU e TASI. Io ti saluto, vorrei salutare anche tutti i miei amici, non so se fumatori o di altre categorie, però, e non ho altro da dire se non traffico. Alessandro Milan, il Pippo Inzaghi dell'informazione. E vai, quando era giocatore soprattutto, quando era giocatore. Va bene, allora, Libero oggi, a proposito di tasse, visto che ne parlavamo prima con Mauro Meazza, ha questo titolo in prima pagina: Equitalia, strozzini di Stato. Beh, il titolo è molto molto forte. Franco Bechis però racconta la storia di un cittadino che ha ricevuto una di quelle raccomandate che si ricevono, no, purtroppo, ogni tanto da Equitalia. Magari basta una multa non pagata, una contestazione dell'Agenzia delle entrate. Vabbè, eccolo qua, il signor Marco Rossi, il nome però è di fantasia, racconta Franco Bechis, riceve una cartella Equitalia, contestazioni sulle dichiarazioni dei redditi di 5 anni prima, e dice: ma come, io sono un lavoratore dipendente, l'unica cosa che aggiungo è qualche detrazione di spesa medica. Comunque va dal commercialista, il commercialista dice: senta, deve pagarla. D'altronde non è una grande cifra, 2114,66 euro, al che questo signore sospira e dice: per me sono più di un mese di stipendio, forse per lei non sono una grande cifra, si può pagare almeno a rate? Eccola qui. Le rate si possono fare, ma il conto finale arriva a 3.076,44 euro con un tasso di interesse di fatto del 45,2% in 2 anni. È un nuovo tasso legale stabilito dal governo italiano, dalle leggi, anche se il nuovo tasso legale sarebbe dell'1% per non considerarlo usura, ma scrive Bechis, eccolo qua, 45,2%. Se va da uno strozzino dal cuore buono, finisce che per una cifra così il prestito riesce perfino a risparmiare rispetto a quanto gli chiede il fisco italiano. Perché Equitalia vuole 32,58% di interessi di mora, il 4% di interessi di dilazione, l'8,6% di compensi di riscossione. Avranno ragione? Si chiede Libero? Non lo so, certo il tema c'è. Come c'è il tema della statalizzazione, l'acciaio di Stato, no? Entro la settimana dovrebbe esserci questa svolta sull'Ilva. Il governo vuole dare pieni poteri al commissario e punta ai fondi della BEI. Questo è il titolo di Repubblica, che ieri per prima ha lanciato questo dossier sull'Ilva e l'acciaio di Stato. Tra l'altro c'è un'intervista anche a Landini della FIOM, intervistato da Repubblica, pagina 11, dice: questa volta Renzi dice una cosa giusta, siamo di fronte alla necessità di salvare un pezzo decisivo del sistema industriale italiano, è importante che si pensi a un intervento pubblico, non escludo per un futuro il privato nell'Ilva, non escludo nulla, dice Landini, ma dico che ora è indispensabile mettere in campo un'operazione strategica che può riportare a una riedizione del modello, che non può portare a una riedizione del modello Alitalia. Cioè Landini dice: va bene l'intervento statale, ma che non diventi una nuova Alitalia. Perché no? Perché questa volta serve un'operazione vera di politica industriale. Non si può pensare di scaricare ancora i debiti di una società su tutta la collettività per regalare agli stranieri di turno un'impresa strategica. Dove trovare i soldi, suggerisce Landini, c'è il fondo strategico, c'è anche la cassa depositi e prestiti. Insomma, Landini appoggia questa scelta dell'acciaio di Stato da parte del governo allo studio per quel che riguarda l'Ilva. Segnalo anche che Avvenire invece ha un'apertura sul gioco d'azzardo, è un tema molto caro ad Avvenire, e oggi l'apertura è proprio questa, c'è questa cifra: Far West azzardo, è un business da 2 miliardi sottratto al fisco. In che cosa? Nei circa 6.000 punti raccolta scommesse collegati via internet a gestori esteri non autorizzati. È un giro d'affari stimato altissimo, questo denaro attorno a 2 miliardi, con la Guardia di Finanza che chiede strumenti di indagine più efficace, visto che dice c'è precluso perfino l'accesso completo alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate. L'inchiesta è a pagina 9 di Avvenire, è un'inchiesta di Nello Scavo, scommesse non autorizzate per 2 miliardi. Sono almeno 6.000, ripeto, i centri collegati coi casinò esteri e che quindi sono tax free e quindi sottraggono soldi al fisco italiano. Noi, come detto, avremo ospite alle 8.35 il procuratore di Ragusa, Carmelo Petraria. Si sta indagando ovviamente per la tragica vicenda di Santa Croce Camerina, dove è stato ucciso questo bambino, Loris, 8 anni. Ormai si dice ucciso perché è chiaro dall'autopsia che sia stato strangolato. I giornali raccontano, Repubblica è il giornale che dice che il cerchio si sta stringendo sempre più, parla addirittura di 48 ore per risolvere il caso. D'altronde è una comunità piccola, 8.000 abitanti, per cui tutti si conoscono. Tra l'altro su questo il procuratore ha detto: è impossibile che nessuno abbia visto qualcosa che ci può riferire. In realtà si parla di una donna che non ha nome, ma che ha testimoniato di aver visto Loris, il piccolo, da solo camminare fuori da scuola. gli ha anche chiesto: hai bisogno di qualcosa? Perché l'avevo visto, e ha detto: no, non ho bisogno di niente, ha risposto il piccolo. E evidentemente questa donna dice: stava tornando dai genitori, non mi sono preoccupata, secondo lei. Ora spunta anche il quindicenne, eccolo qua, titolo di pagina 19 del Corriere: i compagni dicono si vedeva con un quindicenne. Ci sono tre piste per i PM, si ricerca anche tra le persone cosiddette familiari della vittima, familiari nel senso che frequentavano la famiglia. Ovviamente è innegabile che gli occhi sono anche puntati da tre giorni sulla persona che lo ha trovato, che infatti si sfoga sul giornale, come racconta Nino Materi a pagina 12. Per ore mi hanno trattato da mostro solo perché ho ritrovato quel corpicino. E la replica di Orazio Fidone, 65 anni, pensionato Enel con lobby della caccia: sono andato lì per istinto, non so perché altri non ci abbiano pensato prima. È stato però riconvocato in questura anche ieri in serata, per la terza volta. Si dice arrabbiato: non capisco perché mi abbiano sequestrato la macchina. Sta di fatto che ovviamente gli occhi sono puntati anche su di lui, perché è stato quello che ha ritrovato il corpo, e quindi questo succede. Per quel che riguarda invece delitti del passato, è venuta fuori una nuova verità sulla vicenda dell'omicidio di Pierpaolo Pasolini. Sono passati 40 anni, ma titolano oggi i giornali sul corpo di Pasolini diversi DNA, il che vuol dire, dalla conferma dei test, che c'è una lista di sospetti e che non fu solo Pino Pelosi a uccidere Pasolini. Certo, si riapriranno le indagini, è abbastanza certificato dai test che a uccidere Pasolini quella sera non erano, non fu solo Pelosi, perché c'erano appunto test di DNA, residui genetici né di Pelosi né di Pasolini, ma di altre persone. Si parla addirittura di 5-6 persone. Staremo a vedere anche questa. Ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Lo leggo sempre con passione, ma oggi Oliviero Bea sul Fatto Quotidiano a pagina 19 si è lanciato in una metafora calcistico-sessuale che, insomma, Bea, anche il pallone gira intorno al sesso. Diciamocelo chiaro, mettere la palla dentro è il compimento di un atto. Non a caso il calcio è sostantivo maschile, la porta invece è un sostantivo femminile. E allora il gol non gol del Milan, che peraltro era gol. Non per caso il calcio è maschile, la porta femminile. Questo è Freud, e dunque sapere se è entrata o no ha un nesso immediato con l'interruzione del coito. Bea, fermati! Ma chi se ne frega!